Bicicleta. Lasciati abbandonati sopra un ripiano. Per chissà quale motivo ti invito a vivere, a ridere. Prova a farti un giro per capirti meglio, per trovarti meglio. Ti spiego come vivo, da tempo faccio il critico sopra un tappeto ritmico. Illumino le menti dei contorti, esamino chi si spinge oltre ogni limite, provate a vincere. Dalle piramidi, oh, dettagli, punti di vista, spacciami per opinionista, ma il mio discorso è musica, è il percorso, parte integrante dell'obiettivo, è tutto, è meglio, è l'assaggio durante la cottura, il sale è vita vera, la passione è il senso dell'attesa, cordoni ombelicali tirati, matrimoni misti, non esisti più, sono cose che non conosco. Come pretendi di, se non capisco, cosa so di che saprai, se non lo rifarei mai. Forme fisse, impronte, suoni da tastiere mute, contorni di autunni, ultime uscite, un nome, vernice su un muro e mani su un campionatore, modi per fare vite e miracoli, metodi tre, rimescolate gli dei, poi diteci, noi alle origini, beat, suole lisce e vento, da spezzarsi il collo e i gradoni d'inverno, sono fitte di freddo, sono... Momenti rancidi, da condire con istanti nitidi, sguardi fissi per passare il domani. Notti folli, giorni molli, persi in giro, spese a tiro, appena aperto il diario. Dove raccontare il suono passato, scene già viste, vissuto ormai bevute, certe favole inventate, impestate da nani. Storie strane con il gusto dell'orido, statue di gesso che si muovono, per paura del freddo. Becchi doc in alluminio, giri per il condominio, reggiseno con misterio per le scale, con fare da faccia di gradino. Facciamo preventivi, si è alzata la temperatura, due giorni fa fiducia ai medici, oggi lame sul catrame, demo è speciale, sonno, veso, famine e serie, i metodi miliardi, la direzione unica, stiamo tornando lì, it's my destination, siamo partiti da lì, sincopato come house, amo black lab music, microfono B, mainstream, guanti di pelle su tutta la mia pelle, me. Io però quante ne puoi il tuo woofer, affetto frasi sotto noi a fin, le rime strette, siamo rondini da pioggia prese al volo, immigrazione verso un suono che trabocca fumo, tre tazze vuote per spartite asfalto a crescerci, stiamo cadendo a pezzi, i proverbi, lasciali i saggi, sto coprendomi, coniando le felpe, non sempre basta, non sempre, il sempre guasta.